sta ascolto. Otto e Giulio, ci sentiamo. K, ciao Giulio, ci sentiamo. K, sai, adesso ti ho ascoltato perfettamente, hai cambiato radio? No, è attivo. È attivo. Non so se sta pescando ora, boh, come vi ascoltate, se la radio è buona. Ma ti ascolto adesso radio 5 e segnale 5. Ti ascolto, perfetto proprio. Sì, leggermente compressina, però è chiara la modulazione. Vabbè, ancora siamo così. Cercheremo di migliorare nei prossimi giorni. Certo, Carlo. Dai, se ti deve arrivare l'antenna, aspetta e vedrai, che poi sarà diversa la situazione. Allora, Mario, avanti. Per muovere si è allontanato perché stavo dicendo che vi ascolto e basta, poco fa. Niente, io guarda, ti dico una cosa, questa è l'antenna, io sono Mantova Turbo, ciò, sul tetto. E qualche periodo fa, un po' di tempo fa, mi ha dato dei problemi e mi è salita le stazionarie a 5, sono salita. E si è staccato, si è rotto quel cavo che c'è, dove c'è l'antenna, l'attacco al piede dell'antenna, si è rotto, ho dovuto scendere tutto quanto e rifarlo. Eppure non riuscivo a farlo. Io ho messo un accordatore e ho fatto quella fine lì, ci ho buttato via un baracchino, finché che poi l'ho ributtata giù e piano piano sono riuscito a ripararla e adesso sta andando. Esatto, era il Connex 3006, aveva 120 canali, aveva e via. Insomma, era un bel baracchino. Ah sì, no, adesso l'ho risolto. Adesso non uso più un accordatore, uso un rosmetro e basta, tanto per vedere qua quanto stai uscendo e basta, non di più. Diciamo che non dovrebbe partire un baracchino solo per il ROS, anche se sei a 5 e c'hai un accordatore inserito, ma se gli attacchi un lineare è diversa la situazione, come ho fatto io. No, questo no, questo non ce l'ha, questo c'ha solo i 6 metri e basta. Sì, 50. No, sono CB. Che aveva quelli in 27, non è che vanno tanto, Ma diciamo che queste cose è meglio non comprarle su internet, perché ci arrivi sempre delle bidonate, ti arrivano. Come ti arrivano delle bidonate che quando compri qualcosa di nuovo. Perché io ho dovuto... Ho preso da poco un certo pezzo e mi è arrivato, non mi sembrava neanche nuovo, e infatti non funziona e non posso neanche tornarlo indietro perché c'era scritto non restituzione. È una cosa qui, e questo problema ce l'ha solo quando prendi da eBay. Preso da Amazon queste cose non sono successe, perché da Amazon quando è arrivata una cosa che non era nella descrizione è stata riportata indietro, è stata sostituita, e invece eBay no, è tutto una fregatura quella lì, mi sembra. Vabbè, niente di, però pazienza, ho preso quella fregatura, non prenderò più da eBay e prenderò da altri posti. Ok, dai, ciao Mario, buona cucinata, buon tutto, ci riascoltiamo alle prossime. Ciao Mario. C'è nessuno, binario 10, che chi è? E beh, socio. Senti che non c'è un segnale, Come? Abbiamo un segnale bassissimo, come mai? Io ho un segnale basso. Ma che cazzo, neanche uno. allora ci vuole anche un bruciato, non ne so, bu. No, adesso va bene. Ero io, di quell'affare. Ma sei a posto? Sì, sì, 9.30 mi sembra quasi. No, perché ti dico una cosa, io me ne accorgo, se lo smette non va bene, che fa i capricci, allora vuol dire c'è qualcosa che non va, ma siccome è qua, sto a posto, sono a posto, poteva essere anche l'antenna mia, non è detto, meglio così. No, perché in trasmissione era giusto, mi dava, diciamo, portante 9 più modulato, arriva a 9.30, dai. E invece in ricezione mi salivi a 1, forse non stava mollando il relay, non stava scattando. Gappa, e di gusti, dai, ci siamo riusciti. Vabbè, mi hai finito adesso, minchia, tutta la sera in azienda, cavolo. Mi sta, mi ha mandato un messaggio Salverio su WhatsApp, adesso entra sicuramente anche lui, mi sa vedere. Non mi molto confondo con la tua voce. Cosa ha fatto? Ho ascoltato un messaggio, cosa hai detto? Un sacco di volte, lo confondo con te, la voce, la modulazione sua, si assomiglia molto alla tua. Sì, addirittura. Vabbè, ma lui è che da, ma entra, vabbè, lui c'è tanti anni lo stesso, è solo che è un po' mollato. Beh, no, non lo ricordavo lui. Aspetta, devo mandare un po' di foto del lavoro che abbiamo fatto oggi, devo fare una relazione, dai. E va. Il tipo non è venuto lì da Cagliari, quindi gli mando tutto io via WhatsApp, un po' di foto dei lavori eseguiti, se gli va bene. Ah, giù capite. E ci devi fare tutto tu. C'ero io di scorta con questa impresa, capito? E quindi inizio e fine del lavoro, gli mando un po' di immagini, come era prima, durante e dopo, dai. Ma lo sfalcio dell'erba? No, hanno abbattuto due alberi qua, dove abbiamo i parcheggi noi. E quindi gli mando tutto il materiale. E via. Ma molto te ne manca andare in pensione, fra. Se fosse stata ancora la legge quando mi hanno assunto sarei stato già in pensione, ma adesso come adesso ce ne vorranno, penso, 4-5 anni ancora. Ormai non va da nessuna parte. Ne avrei avuto 41, invece ne ho 30, quasi 38, dai. Così, sì, 33, 37 e mezzo, quasi 38. La prima va, giù, dai. Se non mi ricordo come si chiama quella che lavora con te, Maria mi pare, boh, ce l'avevo mica su Facebook. Maria quella di Paesi. Maria, una 600 prima. No, non mi ricordo, ma ho capito. Sì, sì, no, quella... non sta lavorando, o è l'aspettativa, non lo so, Pronto. E ci ti bruci da lì. Ma vedevo su Facebook, poi forse si è cancellata. Buonasera. Ciao Gianni. Sì, non lo so, io non l'ho mai avuta, ho capito che sono delle sorelle, cognome diceva la C, Massottina e piccoletta, Sì, già lì. Cognome o la C, però non mi ricordo il cognome. Qua non si può dire, però già è lì. Oppure non so se aveva la mamma che forse non stava bene, magari in 104, non lo so, però è un po' che non lo vedo. O magari è andata in pensione, chiusa. Ciao Gianni, sicuramente è andata in pensione, avanti già. Ehi, allora, buonasera a tutti, non so chi ci sia, c'è in questo momento. Vi saluto tutti e due cordialmente, non so se ci sia altra gente, saluto tutti insomma. Avanti Franco, di nuovo. Anche io sono stato così, un po'. Ho sentito qualcuno che chiamava, sono stato anche io a gamba tesa, la verità. Ho acceso per scaldare un po' la situazione planetaria e ho trovato una chiamata di Luca, dai. Avanti Luca, buonasera comunque Gianni, anche da parte mia. Ma tu vuoi dire una cosa, non me la metto più. Ah Gianni, ma quando canti intonati un po', Cosa? Quando canti intonarti un po'. Perché non attonare? Già, un po' stoni, offesa, stoni. Vabbè, magari dipende anche dalle canzoni. Tu parti troppo, devi aspettare che parta la base e poi prendi e parti. L'ho ascoltato 4 o 5, comunque ho dovuto scaricare quel programma, aspetta, ti dico qual è. Se no mi faccio la sentire. Si chiama Star Maker, lui si chiama Star Maker. Eia. È un po' amico, aspetta. Adesso non mi ricordo come si fa, Vabbè che è facile, non è facile cantare. Non è facile. Ci c'è qualcuno che sta chiamando sul 10, avanti. Dove sei? A Campomera. Dai, ciao, ben sentito, non so chi sei, sono più rumo in compagnia di Franco e di Luca. Franco, lo senti? No, assolutamente. Chi è? Pappa, io ti ascolto, ma gli altri ti ascoltano, dai, io ti ascolto abbastanza bene. Va bene Franco, dai, ci sentiamo allora, dai. Buona questa greca verso Sassari, avanti tu. Non lo sento, avanti Fra. No, proprio zero, neanche a dire muoverci un po' il QRM, qui proprio non arriva proprio. Poi Campo Emela, lì è bassissimo, già ascolto a malapena un segnale di 1, 1.5, Muros, come si chiama? Claudio. Ma è Claudio da Muros? Sì, Claudio da Muros, ed è in alto, figurati Campo Emela che rimane sotto. Ma qua non arrivo. Vabbè, io non sento nessuno già, non è che se lo sto a modulare. No, non stanno modulando, Franco ha detto che quando arriva a Sassa li cicchiamo. Ha detto che non modulava perché non lo sentite. No, io stavo mandando delle immagini a una persona, un attimo di bianco per me, vi ascolto. Avanti Luca. Io. Caparocci. Hai capito, così è già. Gai è su conto. Comunque io sto cominciando a cantare, è da poco che canta. Ma praticamente bisogna, se tu parti prima dalla base poi inizi a... Non canti male, però c'è, sono dei piccoli accorgimenti. Sì, vabbè. Ci sono le canzoni che le canto bene, perché ho vinto anche il primo premio. Come? E ci sono delle canzoni che ho cantato bene, ho vinto anche il primo premio. Il primo premio sarebbe? Ti fanno, praticamente ti danno i regali da mandare, capito? Le ostriche con la perla, eccetera, eccetera. Siamo qui di primo. Ah, le gift. Che mi viene passione. Allora, ciao Franco. Ciao. Vero è... Gianni. Cosa? Una via di compassione. Vabbè. Io mi diverto, dopo potete per dire quello che volete, io non ho problemi. Sto scherzando. Anche io sto scherzando. Io da sera accanto mi diverto, passo il tempo, con la mia compagna cantiamo tutti e due e ci divertiamo. Capo, fate bene, aspetta, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. No, io ho fatto una battuta così scherzosa. Ciao Luca. Vabbè Fra, tutto a posto. Tutto a posto, guarda, più bene così non ci può andare. Vabbè, meglio così, meglio che vada sempre bene, guarda, meglio. Perché se va male, andiamo male, se non va bene. Adesso già va tutto bene. Prima quando si lavorava andava un po' male perché dovevi alzarti, andare, fare, stancarti, tutto diverso adesso. Vero Gianni? È giusto. Allora, avanti tu. Così, vabbè, cosa fai? Lo so, ti va a stare presto, ma quando non hai niente da fare, cosa fai? Ti sei bucato? No, perché ti devi stare con il cazzo? Ti alzi, vai, ti fai o una colazione fuori, oppure ti fai un giro, ce l'hai tanto tempo. Una volta c'è tanto tempo, da fare tante cose. Quello senza dubbio, senza ombra di dubbio, mi sa che attacco la ventola, ecco qua, adesso vediamo un po', trovare il sistema per abbassargli la velocità. Capo, come si è andata dolce? Positivo. Si nota. Sì, praticamente l'antenna è puntata verso la parte tua, capito? Ecco perché Mari mi ascolti bene. Capo, cos'è, una boomerang oppure qualcos'altro? È la boomerang, è quella grande, è a 2 metri e più. Buono, va bene. Caspita, arrivi 8 e qualcosa modulati. Tu sei sul più del più 30. La faccia. Modulati sono... sì, così sono 50, no? Arrivi benissimo Fra, di giusto. Avanti già. Io come ti arrivo lì? Luca. Tu sei in mezzo, tra il 3 e lo 0, del più 30. E anche per me sei quasi di fronte. E comunque quell'antenna va bene, è vero? Mi fa un passaggio, va. ho detto con l'antenna che hai messo, va bene. Guardati il coso, il telefono su WhatsApp, il segnale che hai. Di più non puoi andare. Mi prendi fra. E a me, dai, lui è molto più vicino di me anche, lì. Vabbè, è importante sentirci. Vabbè, giusto per fare un coso, no? Le prove, ecco. Anche tu arrivi benissimo, fra. Vieni, a casa arrivi un po' basso, A casa arrivi molto, molto più basso. Mi sa che arrivi 5. Quando magari metti più watt, arrivi a 9, se non mi ricordo. Comunque già ti ascolto bene. È la radio che hai, bella. Luca, che mi è arrivata gente che mi sta chiamando giù. Ci sentiamo dopo, vai. Ciao Gianni e ciao Luca. Se ci siete quando rientro. Ehi, a dopo, ciao fra. Ciao Franco, che ero in parcheggio, ti saluto anch'io. Avanti Gianni. Oh, scusa fra, non ti sono saltato, ciao. Ciao carino. E Gianni dov'è? Qua. Anche Gianni arriva forte qua, Voglio salutare a Franco di Sus. Ha avuto problemi, forse qualcuno fa che visita, dai, ci ha dovuto abbandonare. Brecco, avanti. Buonasera a tutti, ciao Gianni, ciao Franco e ciao Luca, c'è qualcun altro? Sì, sono rientrato a Sassari. Ciao anche a te Carlo. Buonasera Luca, Franco, forse Fabrizio c'è ancora, non lo so perché sono entrato alle gallerie via l'Italia, quindi mi sono perso qualcuno. Buonasera a tutti comunque. Carlo, come mi sentivi a me? Ti sentivo dentro la galleria piccola, nella grande sei scomparso, ma nella piccola ti sentivo benissimo. Cappagato, va bene, le gallerie è normale, non passano le onde. Intanto saluto Carlo e saluto anche Roberto, avanti Roberto. Ho cambiato radio, molta differenza c'è dall'altra. Ma io ti ascolto sempre benissimo qua. Forse è meno prepotente la radio, ma è sempre chiarissima. Come non passano le onde? Certo che passano le onde. E se c'è mare mosso? Allora. Ciao, ciao. Buonasera Claudio e Roberto. Ciao, ciao Carlo, ciao. Io ti sento anche quando parcheggi davanti all'aereo. Lo so, solo che ero su d'altra parte, sto rientrando da Bonorva. Sentivo Fabrizio quando ero a Ploaghe e mi è sembrato di sentire Giulio intorno alle 18 quando ero a Bonorva. No, perché a Megeria non ti ho sentito, vabbè, io arrivo tutta quella zona. L'abbraccio molto bene, arriva tutta, volevo vedere se arrivavi tu. Va bene, buonasera a tutti, avanti Roberto, cambia passo, compra e vendo. E a questa è quella grande, Clame. Ciao Roberto, ciao Claudio. Cosa ce l'hai, grande? Grande. Altro ce l'ha grande, Claudio. Così hai detto, ce l'ho grande, così hai detto. Questa è la grande. Ah, ottima, ottima, va bene. Ehi, ma quella fra un po' la fai funzionare in HF. E oggi il baracchino 26. Io no, per fare la camera era un po' da tempo ferma questa qui. Vabbè, fa un po'. Ma non me l'attimo, non è arrivata ancora. Allora, chi ti va l'ordine? Ho chiamato stamattina. La patente entro i primissimi di dicembre me la danno, la patente. E devono, dice, stiamo facendo questo programma nuovo, anche noi siamo poco preparati. Ha fatto nominativo e cosa? No, quelli danno il ministero, noi non li danno. Come danno il ministero? C'è una legge nuova che fate tutto voi. No, deve farlo tramite il ministero. Ho detto, va bene. Sì, come ti ho detto io. Appena ti arriva la patente, subito con la domanda di nominativo. Il giro di una settimana ti arriva nominativo online. Ok, e poi ci prepariamo per l'evento. Tanto io di settimana vado su a Carbonazzi e prendo quel materiale che è rimasto, così iniziamo a montare le antenne, con la speranza che cambi questo tempo. Vabbè, così poi ci facciamo qualche collegamento in HF, in VLU, insomma facciamo tutte le prove necessarie. Buonasera a tutti di nuovo, avanti a chi tocca. Dai, riprendo io. Vi saluto di nuovo cordialmente. A proposito di zone che abbraccio, io abbraccio bene qua, Tanti Romazzoni, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, mio qua. Io qua per me non è cambiato niente, Sassari è rimasto diciamo tale quale, qualche punto esce in meno, perché chiaramente non sei più dentro la città, però non mi posso lamentare, magari mi arrivo a 9, 9,5 come prima, anche 9,10, non per problema, la zona di Bonorra, quella come sempre, no? Non è cambiato niente. L'altra volta ero sul 40, stavo ascoltando Ozieri, mi arriva 9, a Carbonati mi arrivava 7, quindi Pattara mi arriva 9, Budugio mi arriva 8, Lucetto mi arriva 8, prima mi arrivava 4, no, non ho problemi, oh, assolutamente. Va bene così, va bene così, non ho perso niente, diciamo. Qualche punto essere entro Sassari, ma è chiaro, non sei più in città, quindi mi perdi quei punti, però ho tenuto alta la bandiera. Avanti Gianni, buonasera. Io arrivo alla Landriga comunque. Arrivo alla Landriga basso, ma già ci arrivo. Carlo? Sì, ci sono, vi stavo ascoltando. E sono adesso via Milano, sto facendo la rotatoria. Cazzo, sì, oltre 9.60 qua, vabbè, siamo attaccati. 9.40 qua, figurati. Ho acceso il radio quando era Bonorra, in speranza di sentire, ho detto, vediamo se sento la voce di Claudio, ma magari non eravate in radio e quindi ho sentito, forse era Giulio che ho sentito, mi è sembrato lui, ma molto lontano, poi sentivo altre modulazioni dalla zona di Ozieri, More. Quelli sono sì gli amici di quella zona lì. No, beh, se c'era stato io già mi sentivo, perché a me quella zona mi arriva un bel forte. Molto forte. Avanti Gianni, riprendi, se no riprendi tu Luca. E allora buonasera, mi sono sentato un attimino, buonasera a te e anche a Roberto Quadrato, là. Mi sentite tutti e due. Avanti Roberto. Ciao Gianni, sono già salutato anche prima. Dimmi una cosa, Carlo, ti ascoltavi ad Alghero, a me, a Claudio o anche altri? Se ti ascolto bene, Claudio non se ne parli. Anche Giulio lo sento tranquillamente, io sento tutti. Adesso ho un'antenna più lunga e quindi diciamo ricevo anche meglio. Dico all'aeroporto, mi parlo all'aeroporto. Sì, dai parcheggi dell'aeroporto sto dicendo. Io a volte arrivo, che ne so, un quarto d'ora prima e come devo timbrare, se vedo che c'è un quarto d'ora me ne sto in macchina ad ascoltare, capito? A parlare con qualcuno quando è possibile. E con Claudio ci parlo tranquillamente dal parcheggio. A te ti ho sentito, però dicevo Breco, ma magari c'era troppo quel remeno e non mi hai risposto. Sì, ti ho risposto ieri, non mi hai sentito tu, infatti io ti ascoltavo. Sì, tu arrivi tranquillamente lì all'aeroporto, però avevo l'antenna piccola nei giorni scorsi, capito? E non esce adesso? Adesso ne ho una molto molto lunga, oltre il 1,50 m, sulla base magnetica. E che tipo di antenna è, non te lo ricordo? È una Alan F... non me lo ricordo, non posso essere più preciso perché ce l'avevo da tanto tempo, quindi non mi ricordo se vabbè, adesso ti ascolto meglio, infatti. KK, dai, io vi devo lasciare però, arrivata gente, qua siamo sempre all'Ande Caraibi, vi devo lasciare Robby e vabbè, poi passo in officina e vediamo un po' di metterci d'accordo, anche perché devo fare un lavoretto anch'io, devo preparare il telescopico, quello Innocenti, va bucato e soldati dadi per farlo telescopico. 60-55 devo entrare dentro, devo portare su questa antenna almeno una decina di metri, 8-10 metri, e la facciamo volare questa antenna, visto che così a 4 metri da terra già è una bella bestia, la voglio vedere in alto, vedere cosa succede, poi ce ne parliamo per il progetto, dai, comunque tu mi ce l'ho già. E poi niente, già la faccio in officina, ci mettiamo d'accordo perché dobbiamo fare una cosa assieme. Sì, io lo so dove sono. Ok, dai, chi tocca? Avanti, Luca. Se ti serve il 50, quello che ovviamente che ha modificato Fabri, che adesso è un 60, questo, io uso l'altro e lo passi sul 9.40. Vabbè, se lo sto usando tutto, già sto usando il 60 qua, al momento opportuno pure ne parliamo, dai. Ehi, non c'è problema, già non mi avevo i microfoni. Ci aggiorniamo, dai. Io vi saluto tutti e passo in QRX ascolto. Se ci siete a dopo, ma mi devo spostare. Cambio per Luca, altrimenti a ti tocca. Salutando tutti circolarmente a dopo, ciao. Ehi, ciao qua, vai Gianni. Ehi, là. Ciao Claudio, dai. Siamo qua, dopo se vuoi entrare non c'è problema. Avanti Franco. Ehi, cazzo, ciao Claudio, mi hai sentito. Salutoni a QRA, da parte nostra. Vediamo un po' se mi ascolta Carlo. Sì, che ti ascolto. Io sto parcheggiando sotto casa, dentro il cortile praticamente. Non so se mi sentite. Sì, a voi, a questo Santiago. Ok, sono arrivato. Magari ci sentiamo dopo, accendo sulla radio e così mi sentite meglio. KK, va bene, non c'è problema. Avanti, Roberto. No, vabbè, qua è attaccato cosa, arriva a bomboletta, arriva, neanche vi dico il segnale di cosa. Poco fa, quando è passato probabilmente via Milano, a quelle donne lì, è arrivato oltre 9,60, figurati. Però devo dire una cosa, Franco, tu dal Ghero arrivavi più forte di lui in macchina, non so se tu avevi aiuto o che cosa, eri molto più forte di Carlo. No, negativo, in macchina non ho nulla, ho l'apparato che insomma non esce come un baracchino, c'è qualcosina in più, però niente di che. E l'antenna purtroppo non è neanche sulla capota, quindi un po' mi penalizza un po', in base alla posizione specialmente. Però io vi ascolto quasi tutti, dai, non fortissimi, però vi ascolto, specialmente di radio, una buona radio, dai. Ok. Ieri invece Eugenio dice, senti, va solo a me, infatti è stata una cosa, sono rimasto a bocca aperta, era la zona di Liputi, stava andando a Portotorres, dice sento solo a te, gli altri non li sento. Eugenio Portotorres. Infatti ho detto probabilmente c'è un'antenna sta a 2 metri sopra il camper, è già enorme il camper, un motorhom che è una bizza, è venuto stamattina, gli ho sistemato una serratura, c'è l'antenna, cioè il camper sarà alto 3 metri, più di 3 metri, e più c'è un'altra antenna, sarà un altro 1,50 m, 1,80 m sopra. Il camper, cosa ha fatto come piano di massa, cosa ha utilizzato? Dice che c'è una piastra in metallo e poi gli hanno portato un capo, però secondo me non sta irradiando con l'antenna, perché arrivava a 9 ali punti. Vabbè, Luca dice un attimino l'ha sentito, poi non sentiva più a nessuno, lui infatti ha detto buh, e a me mi ha sentito, dice ti ho sentito dall'inizio, io, l'unico che sento, non sentiva neanche a Claudio, figurati. Forse c'è qualcuno che vuole entrare. È entrata anche una bussata di Natalino, Natalino. Sì, volevo sapere se mi sentivi, Fra, perché io arrivo alla Landrica al massimo. Dai, io arrivo ad andare nella zona. Sì, allora siamo vicini. Ma ci arrivo proprio con l'antenna, mi arrivo a toccare proprio dare nella zona, quella delle bombe, come si chiama, signor Fondai. Ciao Fra, sono in ascolto, non posso modulare, c'è l'antenna piena d'acqua. Fagli un buco sotto, quindi scola, buh. Ciao, stanno bene Luca, dai, siamo qua. Avanti Luca, ci sei? Luca, non c'è Gianni? Sì, allora, scusate, ma ero un po' distratto. È entrato qualcuno? È entrato Natalino. Ah, avanti, ciao Natalino, buonasera. Sì, gli stavo dicendo, ciao già. Stavo dicendo a Franco che non posso modulare, c'è l'antenna piena d'acqua. E cosa fa? Ma vai in ebollizione? No, mi manda la bambina in corso e mi salgono le stazionarie, capito? Non voglio rischiare. Mettili un po' di vata, almeno quando va in ebollizione buttiamo la pasta. Metti la perifella, Natalino. La scorza di limone ci metti e diventa un pochettino più piacevole da bere. Come arrivo alle abbiate? E poi se avete parlato in due? Questa Natalina mette la perifella. Guarda Roberto, questo è l'MC50 che mi ha modificato Fabio. Ah boh, ma ti ho detto che c'è molto, molto naturale la voce, però mi piace tantissimo. Bello, no? MC50 fatta 60, circuittino all'interno, e adesso ho commutato. No, non c'è bisogno in cucina di me stasera, beh. Già ho visto che c'è mia moglie o mia figlia. C'è quel pezzo di minchia di mio genere che guarda la televisione. Speriamo ci rommia. Una bomba cicla. Beh, va. Questo è l'MC50, è praticamente microfono normale da tavolo, è uguale all'MC60, è normale però, senza circuito di preamplificazione. E Fabio me l'ha modificato, mi ha fatto il circuitino, ma è una bomba, ha messo il cavettino nuovo, è perfetto, bellissimo. Grande microfono. Complimenti a Fabri, davvero, anche il suo altro giorno, infatti come l'hai sentito subito, fallo anche a me, giustamente, perché cambia dal giorno alla notte, dai, avanti Roberto. E adesso diventa la moda, tutti a cercare MC50, a rompere le scatole a Fabrizio, ci hanno dato lavoro, dai, lasciamoli fare i lavori sui. No, questo è l'esperimento che abbiamo fatto, non c'è nessun problema. Non mi vado, non ti preoccupare. E poi i MC50 sono rari, non è che lo trovi così, e se lo trovi te lo vado a pagare quanto i MC60, perché non segnava il microfono, intanto è molto più bello esteticamente, è tutto cromato, tutto, ha detto come è fatto, vabbè, è bellissimo, poi nuovo, poi c'è la scritta Trio, proprio c'è l'alberino con sotto scritto MC50, è nuovo, per quello che l'ho tenuto, se no l'avrei dato assieme alle radio, invece quello non l'ho dato. Va bene. Avanti, doppio root. Ma quello adesso ti fa da MC50 da MC60, c'è l'interruttore. Sì, uguale all'MC60. Uguale all'MC60. Guarda, così è praticamente amplificato. Ok, così è amplificato, stai attento. Se tolgo adesso l'amplificazione, guarda come diventa un microfono normale qua. Ecco, così è un microfono normale, guarda, la senti la differenza? La senti la differenza? Guarda, è bello lo stesso, anche normale, ma cambia dal giorno alla notte l'amplificazione. E se ti l'hai già detto, un'altra guba. È come l'MC60, preciso di dico solo che anziché chiamarsi 60 adesso si chiama 50 più 60 è un 110. 50 più? Troviamo 50 turbo, KK, avanti Roberto. Ah, fa la fotografia al circuito che me lo costruisco. No, è geloso Fabrizio, è geloso. Carlo, c'è ancora Carlo? Sì, avanti. Ehi, adesso sei vicino a me, adesso ti sento bene. Sono salito a casa adesso. Ah, ecco perché, cazzo, siamo segnaloni adesso. Sono salito adesso, giusto così ho detto, per non fare il maleducato, così dopo vi saluto, perché ho praticamente da raccontare diverse cose in famiglia adesso e quindi magari ci sentiamo più tardi. Carle, ma hai deciso poi per l'antenna? Se mi dai qualche settimana ti do una risposta precisa perché sono indaffarato in queste settimane. Va bene, no, perché me l'hanno chiesta, io non c'ho una parola solo, quindi aspetto che tu mi dai. Mi dici sì o no, altrimenti la do, capito? Perché ce l'ho già qua a casa, per non ordinarla, capito? I tempi sono più stretti, ce l'abbiamo qua, e poi eviti di pagare il trasporto, capito? Va bene, fammi sapere tu. Senz'altro Claudio, ti faccio sapere tra qualche giorno massimo, sicuramente ti dico qualcosa di preciso, un paio di giorni, se riesco a finire un lavoretto poi avrò più tempo. Comunque adesso ne approfitto che sono salito a casa a salutare Gianfranco, te Claudio, Franco, Fabrizio, forse c'è Eugenio e tutti quanti, insomma, ci sentiamo più tardi magari. Ehi, Carlo, va bene, perché intanto ne ho ordinato altre due che me li hanno chiesto, hai capito? La zona dove lavori tu, oramai ho spasso la voce e quindi è conosciuta tra l'altro come antenna, è favolosa, no? Non ce n'è per nessuno, io ti sento perché non ho QRM, capito? Quando tu sei nel parcheggio arrivi Santiago 3 proprio pulito come normale, capito? Quindi ti sento benissimo, 3, 5, secondo dove ti metti, perciò ti sento, con la manca va, non ti sento, con la manca va, c'ho 6, 7 di QRM. Avanti Robè, ciao Carlo, buona serata, buon tutto, vai per i saluti a Ruby, Carlo. Ciao Carlo, ben sentito, dai, rimaniamo ancora un pochettino, poi hai nominato tutta quella gente, Eugenio, Fabrizio, Enrico, Gianfranco, io non li ho sentiti. Sono anche io in ascolto, buonasera a tutti. Chi è questo che sono? Avanti. Salverio. Buonasera a tutti, saluto del circolare. Ah, Carlo, un abbraccio anche da parte mia. Avanti, Salverio, buonasera. Buonasera, ben ascoltati, a tutti sono rientrato e sono mancato ancora un paio di commissioni. Salverio. Salverio è questo, Salverio, sto facendo liscio, perché quanto ti arriva? A me mi arriva 8. Ciao Salverio. Ciao Gianni, non più room. Ti ho detto salutori circolari a tutta la ruota, a tutti i componenti, senza escludere a nessuno. Gappa. Anda bene. Dove ti trovi? Io dove sono, Gianni? A dopo? Positivo, no, da dentro il forno della pizzeria sto parlando. Oggi è il mio giorno libero già, è il riposo per me. Cappa, va bene, ma è chiusa la pizzeria? No, negativo, non chiudiamo mai, siamo aperti 7 giorni su 7. Gappa. Va bene, riposo allora. Già, cosa stai usando? Sempre Dix. Il serpente? Il cobra Dix. Il serpente, il cobra. Bene, bacca. Bellissimo. modulazione, grande segnale, ottimo. Lo stai usando in alta potenza? Sì. Bene. 25 pieno, sì. Ottimo segnale, cazzo, mi arrivi più fortino che quando era carbonati, lo sai. Con questo qua è un po' più potente degli altri. No, ma anche con quello non ci arrivavi a 25, arrivavi di 20 pieno, 20, 22, qua sei 25, sono più in alto e sicuramente abbiamo una buona veduta io e tu. E lo smitter quello l'hai fatto vedere? No. Non l'ho toccato, Claudio, dico la verità. Ah, c'ero usciti, basi più o meno sui segnali e lo lascio stare così, perché magari poi rischi di... O lo fai vedere da uno che lo sa fare, ma metterti a fare e a toccare poi va fuori taratura, non va bene. Ciao anche a Sanvedio, ripeto, Santiago 8, liscio, ultimo segnale anche per te. Natalino 9, però vedo che non può modulare, che gli si è riempita l'antenna d'acqua. E Franco, vabbè, Franco c'è 9 più 10 agganciato come sempre, vai Franco. Sì, ormai io lo accendo insieme, dai, tutto qua. E Salvino, c'è un bel bip, che apparato è, se lo puoi dire, Salvino? Buongiorno Franco, anzi buonasera, non buongiorno. Il mio è un President Jackson, degli ultimi modelli, perché questo qui l'hanno fabbricato in Francia, addirittura dietro all'attacco per mettere il frequenzimetro, cosa che l'altro modello che avevo, il primo, quello silver, argentato, non aveva. Claudio, guarda, ci ha migliorato un po' il segnale confronto a prima. Ci avete, l'ho già detto, una bomba. Vai da 8 liscio a 9 più 5. E vabbè, allora qualcosina la guadagniamo, dai. Avanti, Fra, quando vi ascolti. Sì, anche qua è aumentato, sì, quasi sullo 0 del 30, del più 30. Ottimo, va bene, noi siamo vicini, però voglio capire questo microfono se sta andando bene ora o se ce lo devo fare. Questo microfono a tavolo, io mi ricordo con l'altro apparecchio usciva una fucilata questo microfono, ora sarà dovuto sicuramente, come stavamo discutendo stasera con Claudio, dovuto all'antenna, ma si parla ancora di poche ore, dai, al massimo mercoledì penso di essere con l'antenna nuova. Va benissimo così, è leggermente più alto di quello normale, però come ti ho spiegato non puoi aumentarlo molto di più perché va in contrasto con c'è l'amplificatore, capito? Lascialo così, è ottima la modulazione, Gianni. No, già va bene, non è che spiga più il tanto, però va bene, è un microfono normale. No, negativo è quello che infatti mi preoccupa, perché questo microfono spingeva forte con l'altra radio. Però c'è da dire che l'altra radio lo utilizzavo con una mantova 5 sopra il tetto e adesso in questo momento sono in condizioni precarie, c'è un antennino che non vuole visto, è incendiato, infatti ho dovuto attaccare un accordatore perché sennò non è ripiede. Ho provato a accordarlo, alzare lo stilo, abbassare, nulla, è sopra un pezzo di ferro così, un antennino di macchina non è fatto per mettere in un poggiolo, è fatto per mettere in una vettura. Sbaglio Claudio. Cioè, vai benissimo alla grande, è un'ottima causa, purtroppo quando c'è un antennino così c'è inserito l'accordatore, il collegamento è giusto, però chiaramente avendo l'accordatore in mezzo tra lineare e antenna e succede quello con un amplificato, capito? Mentre invece non ti succede col microfono normale. Quando poi monti l'antenna allora vedrai che il lavoro e la modulazione va molto meglio, però il microfono sta uscendo perfettamente. Ok, riprendete. E io volevo qualche controllo in lontananza, chi è più lontano in ruota venga avanti, fatta un colpo. Io sono più lontano. No, c'era qualcun altro più lontano, no? Non lo so, Gianni, Franco, Natalino, anche Roberto più a vista ottica dentro Sassari, io sono quello più lontano, quindi per me va bene. Da 8 a 9 più 5 è un ottimo segnale, con quell'antenna che hai. Il tuo è 9,20 pieno, con picchi positivi. Vabbè, la radio non si va vista, super 5. Sai, qua sei quasi 9,10, però la radio è bassina, che microfono stai usando? La radio è bassina, questo microfono... Allora, vediamo un po'. Guarda la radio, se è ancora buona così. Già l'ho sentito anche io l'innesco, ce l'ha alzato tutto, ma in disaccordo, non ce l'ho a fare. Ma ancora è buona la radio? O mi porta appresso qualcosa? No, già è buona, però non la sento bella amplificata, Salvi. Cioè, considerando il segnale che c'è quasi 9-10, cioè gente con il segnale 9 arrivava più forte del radio. Non può mancarlo, che va in contratto, fischia e innesca, capito? Perché c'ha l'antenna piccola e c'ha l'accordatore silizio, quindi non fa... va bene così, dai, lasciategliela così, va bene, è abbastanza chiara, abbastanza alta, meglio di un microfono normale, va bene. Vabbè, già si deve mettere l'antenna grande adesso, Salvio, e farà schiare un pochettino. Ok, c'è Franco ancora, avanti Franco, che puoi fare girare per Antonio o per Claudio. Sì, no, anche qua il segnale è fortissimo, la radio è abbastanza buona, è chiara, la radio di 5, però come dice Roberto, no, non spinge più di tanto, però è chiara. Vediamo un po', avanti Antonio. No, aspetta Antonio, ho sbagliato, volevo dire Gianni. Ah, allora avanti, fate domani, non ho sentito io. Avanti Gianni. Ehi, ehi. E vabbè, comunque, sai, il fatto che i dischi potrebbe essere anche dalle stazionali dell'antenna. Magari c'è stazionale in antenna e ti fa innescare il microfono, poi magari con l'altra antenna risolvi, ma l'hai aggiustata la mantova? Ciao ragazzi, la mantova me la sto prendendo con calma, la sto ricondizionando, piano piano la sto rimettendo a posto e se non ho possibilità di metterla sul tetto, va bene. Me la vendo, però la vendo in condizioni, cioè prima la testo, la porto in campagna, giuro, ci abbiamo la campagna noi, vicino a Marchetto, e la provo di vita a se vedo che riesco a portarla, che l'antenna radia bene, tutto quanto, se c'è una possibilità, ripeto, di metterla sul tetto, me la vendo. Capito? Qua per metterla, la sto mettendo qua nel poggiolo, sto mettendo un'altra antenna che ho comprato, mi devo dare in mare, per non aumentare, Charlie, non aumentare, lascialo a 5, 6, non di più. No, forse no, sta per aperto. Adesso, penso che non ci vedo bene, non vedo quanto cavolo è adesso, dove è questa lancetta, ma è Tony, chiudili tutti, chiudili Tony. Le tettoni adesso sono a zero, sono chiusi del tutto. No, dov'è? A Bru, vi ho preficcato, Lasciala così, puntella. Da far Roger, aspetta che ci metto un chilo di colla. Io l'altra volta stavo usando un microfono del Mega amplificato, come attaccavo diciamo l'Alfa Lima, il microfono veniva riempito di radiofrequenza, non funzionava più, esce bene solo liscio, quando l'ha agganciato esce una porcheria, ti ricordi Claudio? Questo problema che aveva schiaccia video, è normale, capito? È normalissimo una cosa del genere, come ti ha detto Gianni, evidentemente non le legge le stazionarie che ci sono tra l'antenna e il lineare, ti legge solo quelle tra il baracchino e il lineare, e te le porta giù, te le porta fuori e ti fa andare in disaccordo, capito? A tutti i dini, lascialo così, non emettere il tono, lascialo al zero, vai Robè. Sì, ha migliorato, infatti come hai chiuso il tono è molto meglio, lo sapete. Ok, ok, va benissimo. Ti ascolto. Ma lo c'hai toccato. Luca, va bene, me ne accorgo, va bene, c'è un strumento, va bene. Non ho portato niente di nulla. Stacca il lineare, va bene. Allora, adesso in stand-by, sì, ma è un disaccordo, non ho dubbi, perché guarda, così in stand-by io la posso anche alzare un altro po' la modulazione, e penso che adesso stia uscendo bene, penso, poi non so, vedete voi, datemi conferma. Alla grande esce senza legnare, alla grande, ma siccome ti scelgono tutti, non è attaccare, Salve, se magari entra qualcuno da fuori l'attacchi, dammi retta, e poi fare danno. Franco, hai sentito che il... cosa ti ha detto? Franco ha facciato una radio, mi uscì. Sì, no, finalmente d'accordo. È spento e rimane spento. No, tanto siamo lui, siamo tutti rochi vizzino, non c'è problema, dai. Un attimo quel Rick, si sto ascoltando. Se sono fuori dal terrazzo, fuori dalla sigaretta, se no per mulire mi cuore in moto. Sì, fuori dal tunnel, vai, Robè. Sì, salve, ma allora tu c'hai l'accordatore si salva la radio, nel senso ti ha dato l'impedenza, ma non significa che l'antenna sta irradiandomi, perché tu gli hai abbassato il ROS, però non significa che l'antenna sta dando il rendimento che deve avere, per cui stai molto attento se attacchi il lineare, non ti fidare troppo. E gli ho già spiegato, tutti sono convinti, ma mettono l'accordatore per abbassare le stazioni, ma non funziona così, assolutamente, capito? Se le abbassa tra il baracchino e il lineare, ma in antenna le stazionali ci sono lo stesso. Eh beh, certo, certo che sì. E infatti ci nota come agganci e se le fa salire, non venuta qua. Cioè, devi di nuovo se tu accordi con la potenza minima, con 5 watt, dopodiché se tu agganci e diventi 100 watt e più, devi di nuovo metterti a accordare, perché ti ha sfasato tutto, perché la potenza è 10 volte più superiore, è logico, no? E quindi questa cosa di squadra del microfono è disaccordo, perché non è tutto come deve essere a regola latte. Adesso aspetto altri 2 giorni e poi vedremo di che morte abbiamo morito. Ci ha rotto fritti. Dai, mi sta ascoltando. E si conferma, vai Gianni. E io là. Quindi sapevi che antenna devi piazzare adesso. Accendi il fumo anche la sigaretta. Accendi il fumo, non lo so neanche io. Che ci è rimasto? Luca c'è ancora? Fa male il fumo. Ma Gianfranco, l'avete sentito stasera? E chi? A Gianfranco? No, negativo, io ho i muratori, quindi sono andati via alle 5. Poi c'ero fuori, poi mi sono un po' pulito sotto la veranda, mi ha fatto un casino niente. Non so se è entrato o non è entrato, ci ha chiamato. Stiamo lavorando per te. Sì, lui, fortunato e sciso. Io ci sono da ore. Dove sto lavorando? No, perché poco fa ho salutato a te, a Eugenio, un sacco di gente, ho fatto, ma adesso un cuzio non li ho sentiti, infatti adesso ti ho nominato, e come dice lui, Fontomaldo è uscito da Tendialetto Sassarese, beh, già fra novità. Ma in realtà si dice, gente in Fontomaldo a fare montinacci canta, quindi sì, che anche il mio PC ha avuto colpi con quei drive, quindi... ci ho dovuto mettere il rimedio, adesso è in funzione il tuo, sto scaricando un nuovo programma che è più maleabile, perché lì è un programma sempre del suo drive che rompe le scatole, c'è anche tutti quelli cose che piacciono a Matteo, Oscilloscopi, Trick and Track e compagnia cantante, quindi mo vi saluto e me ne ritorno a giocare con questo vecchio PC. Saluti a tutti, riprendi Claudio. Scusa Gianfran, ma stai parlando del tuo che hai sistemato o quello mio? No, ho dovuto sistemare anche il mio, che sono andato e non ne funzionava una. Quelli sono gli aggiornamenti del signor Bigate, che ci rimanda un giorno sì, un giorno no. Comunque, adesso sto facendo installazioni sul tuo. Quindi adesso la legge la chiavetta. Guarda, ha finito in questa istante di fare un'installazione di un nuovo programma che non richiede quell'impiastro di drive. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, ecco. Ok, ti ringrazio anticipatamente, poi ci metteremo d'accordo per il resto. Ok, chi è rimasto qua? C'era Claudio, l'ha rilanciato, avanti Claudio per Gianfranco, sta girando il porcetto, Franco per Gianfranco. Sì, capo, volevo fare saluti a Gianfranco, volevo chiedere una cosa, vai, non dico la zona, ma ho visto l'altro giorno una casa, in una zona alta, con tante antenne, zona più o meno dove mi hai detto tu, dai, qui c'hai parecchie antenne verticali. A chi stai dicendo? A Gianfranco. Sì, tantissime. Saranno, neanche io lo so quanto sono, guarda, ma le noti perché ci sono le insegne, cioè c'è la bandiera in alto. No, vabbè, io stavo andando a lavoro, mi sono notato, mentre scendevo nelle zone basse lì, ho guardato lo sguardo, tratto sullo sguardo, ho visto un sacco di antenne in una casa, in una villetta, penso che sia una villa, boh. Poi la bandiera non ho fatto in tempo a mettere a fuoco, poi ho visto un sacco di antenne, mi sembrava antenne verticali. Un attimo, vi saluto tutti e saranno via io, ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao Gianni, buona serata anche a te, grazie per la compagnia. Avanti Gianfranco. Sì, sono all'incirca una decina, tra verticali e orizzontali, che quelle non le vedi perché sono dietro. Più due parabole, due direttive, trick e track e così via. Dai, complimenti, avanti Roberto. Ciao Gianni, buon proseguo di serata. Vai Claudio. Sta mettendo il mirto. Rispondo io allora, dai. Ho finito di fumare, che razzo. Ti stavo ascoltando. ciao Gianni, buona carica, sicuramente te andiamo a mangiare, ci sentiamo per le prossime. Buonasera all'amico che parla di computer, Gianfranco, sono Valerato, buon ascoltato. Ciao, salve, mi sentito. Vai Franco. Sì, sì, è Gianfranco. Non so se può riprendere o è impegnato a quei driver. Volevo dire una cosa, Roberto, dimmi, così invece liscio il segnale quanto è? Molto più debole. Il segnale sei quasi 9, attaccato sei 9-10, salve. Però la cosa è strana, un segnale 9, deve uscire bello pieno, invece la radio non ti sento, cioè la sento molto, molto più bassa di loro. Certo, vabbè, comunque adesso magari ho possibilità di alzare un altro po' il microfono. Vediamo. Allora ce l'ho la tacchetta. Ora, adesso innescando sta, 1-3, 1-3. Ho il QRM alto, tu superi il QRM, cioè il QRM è quasi a 8 e tu sei poco meno di 9, un peluzzino meno di 9, però ti porti appresso questa specie di QRM. La cosa strana è quella, infatti non riesco a capire, il segnale è forte, però la radio non mi soddisfa, non per criticare, già lo sai, se no te l'avrei detto. Però attualmente non è tutto colpa dell'antenna, non c'è la piano di mano, non va bene, c'è poco da fare. Stai andando bene così, a quanto ce l'hai il microfono? Vedi, così lo regge, adesso l'ho sganciato e l'amplificazione l'ho alzata, poi non so se io non mi sto ascoltando, quindi non so se è preamplificata bene o come. È una bomba, va benissimo, bella amplificata. Franco. Sì, adesso è amplificata. Però non è proprio, è tipo il microfono che uso io, quello M95, la sento un po' scatolata. Che microfono hai, mi hai detto? È strano perché ti ripeto, quando c'avevo la stazione a casa della mamma con la Mantova 5, questo microfono ci fa una fucilata. Vabbè, la panica era modificata, poi quando chiudevo tutto, però era sempre molto preamplificata. Un di più 5 comunque. Metti il tono a 1. Come? Metti il tono a 1. Ok. Guarda un po', adesso aperto, appena i toni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, il mic niente dell'apparato che appena chiuso. Era un bel po' chiuso, adesso l'ho aperto. Il mic niente dell'apparato. Avanti. Tu devi fare un momento, ti dico io, non toccare. Ero mai che lascialo stare com'era a cazzo che stai innescando. Minchia Sarri. Ma era troppo chiuso, guarda, ho preso un pelino. Il mic dell'apparato, Il tono a quanto l'hai messo? Da giù ti pulito a 1, dentro del bollo. A 1, adesso è a 1, il tono è a 1. Toglielo a vedere se fischia. Come? A toglierlo. E cosa devo togliere? Il tono? Toglielo a vedere se fischia, non fischia più. Adesso tutti sono chiusi. Aspetta. Ecco, adesso non vedo l'amplificazione. L'amplificazione del microfono è a 8. E il microfono è leggermente chiuso. Per me va meglio così, Anche per me quel tono non serve a niente. Ascolta, il Mickey Gain, prova a darle un pelino più di Mickey Gain, senza toccare il microfono. Ok. Un pelino, così ho già una virgola, l'ho già aperto. Apri tutta la virgola. No, così è tutto aperto il Mickey Gain dell'apparato. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una bomba, Hai capito dov'è il problema, Fra? Quando lui attacca completamente in un disastro succede. Così va bene, toni a 0. Il microfono a 8 e il Mickey Gain tutto aperto. È perfetto. Va bene, allora lo lascio così per il momento, dai. Poi più avanti ci aggiorneremo. Non tocco più nulla. Aspetta che prendo la colla calda che la butto sopra. Ok. Invece usi senza toccare più questi parametri, se attacchi in lineare, sorry, togli quel microfono e metti quello normale. Certo, sì, col suo originale president, poi mi ha detto anche che va anche discretamente bene quel microfono originale, perché è proprio il suo la radio. Infatti adesso voi riprendete che io poi dopo faccio un'altra prova e mi dite come mi sentite. Va bene, così per me sta andando una canonata. Santiago 8, radio 5, perfetta. Vai Gianni. Gianni è passato in quelle reti. No, ragazzo, veniale, peccato. Mi avviso io, vai Roberto. Mi sono andato un paio di minuti, avevo il telefono, niente è successo. No, guarda, Sanvedi, abbiamo regolato il microfono, invece funziona bene, senza lineare. Vai, Sanvedi. Sta attaccando l'amplificato, mettere il mic normale, prova con lineare, vedere se innesca. Sì, come tocca i toni, mica innesca di brutto, peggiora di brutto, deve lasciare i toni a zero, c'è qualche problema sui toni? No, aspetta, l'antenna, non c'è nulla a fare. No, Roberto, adesso sono sempre con liscio con il microfono a tavolo. Come mi ascolti là, Roberto? Sì, è migliorato tantissimo adesso, Savere, cioè da prima è molto meglio. Ok, quindi questo microfono a tavolo momentaneamente lo devo utilizzare così. Liscio, col malacchino, è regolato così. Vabbè, riprendete che poi dopo vi faccio un altro passaggio. Allora mi ascolti a me, Savere, che segnale mi dà dalle tue parti? Allora, sì, 9.15. Ma noi sicuramente non siamo molto favorevoli, io con te, lo sai. Perché sto guardando gli altri. Vabbè, tu sei con un antenino, perché non si può fare il discorso, dai, come non è. Allora, guarda, hai un pelino forse più forte di Claudio, come Claudio, sì, come segnale, o forse un pelino più alto, che è veramente negativo nei confronti del pompone, che avendo un avanto va proprio qua, arriva livello proprio bassissimo, Santiago 3, quando attacca arriva a 9. Sì, ma quello che mi meraviglia, tu sei quasi 9 e io ti arrivo 9 più 15, vedi a che cosa che non quadra, dire. E io ho la Mantova, sto andando una decina arrivati, poi di portate, modulati arrivano più del doppio, però non riesco a capire come mai tu stai arrivando quasi 9, però non è un segnale, come dico, probabilmente con l'antenna stai radiando una direzione non favorevole verso di me. No, tu la verità sei fortissimo, sei forte, il segnale, ti ripeto, è quasi uguale a quello di Claudio. E vicino a te, il più vicino a te, un pugno ha sempre avanti, ma arriva proprio a livello liscio, arriva a Santiago 3. Quando aggancia riesce a arrivare a 8 o picchi a 9, se no arriva a basso. Se c'è un QRM alto, manco lo sento. Sì, ok, vai Franco. Sì, confermo anch'io, anche qui è favorevole quella zona di Pomponio, arriva bassissimo, 5-6 forse, liscio, poi quando aggancia qualcosina di più, è negativa anche per me, avanti Cla. Tu Franco stai arrivando quasi 9 più 30, amico, è negativo. No, nei miei confronti Pomponio arriva basso, no, non è forte. Vabbè, ce l'ha bassissima Pomponio, eh. Allora, questo qua è il microfono originale dell'apparecchio. Microfono originale President, che mi è arrivato quando ho comprato l'apparecchio, c'era questo microfono accoppiato, il suo originale. Com'è la modulazione? Molto più bassa? Salve. Oi, dimmi. Ma c'è l'FM tu? Certo che c'è l'FM. Comunque dicevo, questo è il microfono originale dell'apparecchio, microfono President. E così siamo alla potenza. Ha cambiato qualcosa? Cambio, passo. Sì, da quasi 9 si è passato a quasi 9 più 10, ha migliorato anche la radio. No, prova in FM, per curiosità, salve, proviamo a fare in FM. Ok.